sera. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Buona serata a tutti, io sono Flavio Bilato, dall'altra parte del vetro a farmi compagnia Maurizio Calzavara. In questo live abbiamo già conosciuto le prime due parole di Andrea Romano. Buonasera, buonasera Andrea. Buonasera a voi. Buonasera Andrea. Andrea Romano che viene a trovarci direttamente da quel di Brescia. Ha fatto un po' di strada per venirci a trovare, ormai Brescia ci regala sempre emozioni nuove e noi, a noi piace tanto la musica che arriva da Brescia e piace tanto presentare i protagonisti del bresciano. Allora, Andrea Romano ha una storia da raccontare, prima ancora di quella di artista e di cantante, perché è una storia che parte da lontano, da quando eri ancora un pilota di rally e un imprenditore. Sì, io comincio da ragazzino come pilota di auto da rally. E poi verso i 28-29 anni ho smesso di fare la professione, il mestiere del rallista, e nel frattempo qualche anno prima avevo cominciato a lavorare nel mondo imprenditoriale e a un certo punto, circa 10 anni fa, ho deciso di cambiare marcia e frequentavo ambienti teatrali, ho fatto 5 anni di scuola di teatro e ho sempre letto cose filosofiche, ho sempre dipinto fin da piccolo, insomma alla fine ho detto che okay, faccio o questo o quello, nel momento se non lo facevo allora non l'avrei più fatto, quindi ho fatto questo passo e poi ho cominciato a suonare, a cantare, a scrivere canzoni. Certo, quindi l'artista che è in te era già nato da piccolo, solo che l'evoluzione delle cose hanno dato spazio prima ad altre, come dire, performance, seppur anche pilota di rally, voglio dire, ci deve essere una carica, una motivazione anche, sì, per fare questo. Sì, diciamo che io sono come un po' tutti, però voglio dire, io ho una personalità un po' ampia. E quindi sono sia una cosa che l'altra in realtà, e mi piace molto sperimentare, capire i mondi e provare a buttarmi al meglio nelle varie faccende quotidiane, e ammesso che ci riesca, voglio dire, però io sono contento, cioè mi rendo conto dei limiti, dei pregi e dei difetti e mi vado bene così, ecco, cioè. E questo è il secondo album, mi pare, della tua discografia. Secondo album. Tu hai detto in un'intervista: parole e musica nascono, per quanto mi riguarda, quasi sempre insieme. Sì, sì, è così. Cioè le componi così praticamente. Piano, hai cominciato a suonare il piano nel 2007, mi pare 2006-2007, poi hai cominciato a sviluppare il discorso del solfeggio. Ci sei dato da fare per imparare lo strumento. Vado tuttora a scuola, non diventerò mai un talento. Non diventerò mai un musicista vero e proprio, chiaramente. Però io quando ho cominciato, e vado ancora dal mio amico e maestro Marco Cremaschini degli Hippie Tendencies di Brescia, un gruppo. Sì, sì, sono venuti a suonare qua. Erano qua, sì. Un jazzista, io vengo, i miei ascolti sono quelli da giovane e ancora oggi io amo da morire Battisti, e poi mi piace molto Jimmy Callum, lo Swing, Frank Sinatra, Eric Conning Jr. Cioè mi piacciono tantissimo quelle canzoni un po' anni 50, con questi accordi molto alterati, eccetera eccetera. È vero che però mi piace anche il rock, mi piace anche il pop, quindi nei miei dischi trovi delle cose un po' anni 50 e anche delle cose molto invece più popettare, insomma, ecco, quindi sì, ho capito. E allora mi sono esercitato e non diventerò mai, riprendo il filo, mai un grande pianista, però ho chiesto a Marco 10 anni fa, gli ho detto: ascolta, io dagli un'impostazione, voglio scrivere le canzoni, fammi capire come funziona, ecco, e lui è stato veramente bravissimo a seguirmi passo passo. Quel Marco, poi, che ha anche una scuola jazz alle spalle, sì, è molto jazz, e tra altre cose avevamo avuto piacere appunto nell'ospitarlo, lui era seduto all'altezza di Maurizio, tanto sì, esattamente, ben altra cosa, ben altra, sì, cosa, ben altro spessore, artistico, e naturalmente si parlava di quelli che sono i miti jazz, e lui, da buon tastierista, da buon pianista, ci ha segnalato Thelonious Monk. Pensavo me avesse segnalato. Comunque magari sarà la prossima volta che sarà ospite, ricordateglielo, perché gli vengono i capelli bianchi. Citerà definitivamente. Okay. Vabbè. Allora, 2010, si citava prima Maurizio, il primo disco di Andrea Romano. 2009 con, forse, sì. Sì, una piccola stella. Specchio nel blu. Specchio nel blu. Tu non azzecchi neanche uno stasera, guarda. No, è vero. Andrea Saviano, perché mi hai chiamato prima. Adesso. Allora, no, Giordano. Sì. Allora, una piccola stella è una, dopo la facciamo al piano, magari cominciamo con quello. È un pezzo dell'ultimo album che si intitola Quante stelle un solo cielo. Mentre invece il primo album del 2009 si intitolava Specchio del blu. Dal titolo del singolo Specchio del blu che avevi acceso all'epoca, due anni fa. Adesso siamo già in studio e stiamo preparando il nuovo album, perché sono un giovane vecchio, nel senso che sono sei attivo al 100%. Sono uno che ha 45 anni, domani 46, anzi fra due ore. Buon compleanno allora. Grazie. E però sono veramente come se fossi un emergente, un giovane dal campo musicale, quindi è chiaro che faccio un percorso di comprensione e di approfondimento e di trasformazione anche, però devo farlo in brevissimo. Ho capito. Quindi c'è quello che magari uno di 20 anni da un disco all'altro cambia e deve metterci 5 anni per cambiare, io cerco di farlo in un anno, insomma. E con quel disco che parliamo, di cui presentiamo stasera, ti ha dato una mano una band, i Kaufman. Sì. Sono tre pezzi arrangiati da loro, tra cui Una piccola stella, Quando io saprò e Se io fossi vento. Mentre invece gli altri 7 sono arrangiati da Umberto Irvolino, certo, il maestro che adesso vedremo poi giovedì, è su Rai 2, dirige l'orchestra nel nuovo reality al posto di X Factor. Sì, vero. È vincitore di Sanremo con Renga, con Angelo, eccetera, eccetera. Quindi uno che sa fare sicuramente il suo mestiere, è molto bene. Sicuramente, come anche Kaufman, perché certo. abbiamo due cioè, in questo disco ci sono questi tre pezzi che sono molto cantautorali, molto autorali, e forse sono davvero con un mondo molto molto molto più intenso. E Umberto ha una grazia, un'eleganza e una maestria che io, secondo me, nessun altro ha. Adesso invece l'ultimo, stiamo in studio, stiamo già cominciando a arrangiare i primi pezzi, sarà molto molto elettronico. Ho capito, cioè fare una variazione, sì. Più che variazione, hai allargato gli orizzonti. Quindi cerchiamo, cioè le canzoni sono sempre così, un po' diciamo di un po' raffinato, non raffinato perché sono raffinato io, cioè in quanto gli accordi e le melodie sono abbastanza raffinate, e però con abbiamo aggiunto un po' di elettronica, quindi un mondo un po' Tiziano Ferro, Jovanotti. Vuoi esplorare, giustamente. Esplorare. Bene, allora stiamo parlando con Andrea Romano e pian pianino entriamo a far parte anche noi di quello che è il suo mondo. Un ultimo CD uscito nel 2011, Quante stelle un solo cielo è il titolo dell'album, e noi cominciamo subito l'ascolto con la traccia che apre il CD, si intitola Mondo, e poi torneremo qui insieme a commentarla. Blu Radio Sera. Giovanna aveva 4 soldi in un cassetto e niente da sognare. Mario che pensava, sguardo al muro, ma che faccia ste zanzare. Giulia non pregava affatto, ma sapeva come amare. Luca ad ogni passo un accidente e al diavolo il mondo. Mondo, tante storie, un solo uomo. Mondo, quante stelle, un solo cielo. Mondo, nato a causa di un effetto. Dio, figlio e padre di te stesso. Di te stesso, di te stesso. Di te stesso, di te stesso. Marco aveva un gran talento ma non sapeva cosa fare. Gamma conosceva 3 parole che sapeva far fruttare. Il doganiere moglie amante disse nulla da dichiarare. Un barista si fingeva sordo per non chiacchierare. Del negozio si chiedeva fosse male rubare 4 soldi al giorno, forse è normale. Il sergente stanco della guerra disse al comando: Voi dite che si fa la storia, ma io ho perso memoria. Mondo, tante storie, un solo uomo. Mondo, quante stelle, un solo cielo. Mondo, nato causa di un effetto. Dio, figlio e padre di te stesso. Amore che non dai, e gioia che non hai. Più piani ti metti, meno cose poi vedi. Cerchi solo il difetto per sentirti perfetto. Amore che non dai, e gioia che non hai. Amore che non dai. Giù in TV, uomo, nato causa di un effetto, Dio, figlio e madre di te stesso, di te stesso, di te stesso, di te stesso, di te stesso. Il presidente chiuso in estasi nucleare, baciò l'oppositore in bocca e disse: mi vuoi sposare? Adamo lo intuiva che una mela avrebbe fatto male, ma Eva lo convinse un giorno. Quel che è scritto è da fare. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato il primo pezzo dall'album Quante stelle, un solo cielo, si intitola Mondo, a cantarla, a suonarla Andrea Romano. Ecco, questo mondo con tante storie piccole e importanti, tanti nomi, ma alla fine c'è solamente un uomo, anzi un uomo solo. Sì, l'uomo inteso come umanità, con i valori anziché quello che... si definiscono come gli archetipi, cioè i principi fondamentali sono gli stessi per tutti noi. E chiaramente poi ognuno li interpreta a modo suo, con una sfumatura di colore diverso, ma se ti do una. Se ti faccio del male, tu senti del male, e il male è un principio. Se io ti tradisco, è chiaro che vuol dire che siamo costretti a imparare a non tradire, perché alla fine se noi tradiamo un altro, l'altro ci resta male, noi restiamo soli, e poi capiremo che non dobbiamo tradire. Cioè, ci sono proprio questi valori, questi principi fondamentali che sono uguali per tutti, bianchi, neri, gialli e ovunque. E noi siamo un po' costretti, liberi, ma costretti di cambiare, di ondeggiare, e alla fine poi di trovare un punto centrale, che quello sarà uguale per tutti. Dal punto di vista musicale è un pezzo molto accattivante, che ha subito preso, ha scosso l'album. È stata l'intuizione di Umberto, l'arrangiamento totale, oppure anche una tua intuizione? Ma devo dirti che Umberto ha questa caratteristica di rispettare in toto l'indirizzo tuo. L'indirizzo. Ho capito. Ha lavorato sui miei piani voce. Ed sono rimasti tali e quali, li ha vestiti. Ma li ha vestiti, giustamente. Quindi è proprio stato. Cioè, tu gli hai detto: io ho fatto così, cosa ne pensi? Io lo sento così. E lui ti ha agevolato, insomma, praticamente. Sì, certo, abbiamo parlato di Umberto come un grande amico, ma ricordiamo Umberto, anche agli ascoltatori che stiamo parlando di Umberto Iervolino, che è un grandissimo musicista, un arrangiatore, uno che ha fatto tanta scuola in Italia, assolutamente. Beh, Destinazione Paradiso di Grignani, esatto. Per dirne una, voglio dire, 3 milioni di copie vendute. Quando ancora si vendevano i dischi, quando ancora si... cioè uno che sa gestire le cose, sa arrangiare le cose, sa dare un tocco, sa dare una colorazione ai pezzi. Ha veramente una sensibilità, esatto. incredibile, sì. Bene, prima e adesso sta lavorando su altri due pezzi, perché usciamo con questo EP, saranno 5, 6 o 7, adesso non so quando. Un po' elettronici, nuovi. E poi detto. Sì, due li sta arrangiando lui, e sto aspettando in grazia che mi mandi qualcosa per sentire, sono curiosissimo di sentire cosa tira fuori dal cilindro, e gli altri stiamo facendo noi a Brescia con l'amico Cristian Piccinelli e la band che mi accompagna nei live, Giovanni Rovati, Max Comincini, cioè tutti questi musicisti grandissimi bresciani che si stanno interfacciando per tirar fuori qualcosa anche loro di di particolare, spero. Comunque i suoni saranno sicuramente nuovi e innovativi. Benissimo, benissimo. Quindi Brescia è una realtà molto interessante. Tanti gruppi arrivano da Brescia. Sì, sì. È una città che musicalmente sta rinascendo praticamente. Sì, io dico sempre, perché è una città di gnocchi, no? Nel senso, una città di persone che viste con i piedi per terra, molto nel senso più bello del termine, anche, certo. No? Però è difficile, uno dice questi qua così quadrati, no? come fanno con l'arte. Invece in realtà probabilmente come reazione, no? Perché sai che ogni cosa poi crea, genera il contrario. Con queste radici ben poste a terra stanno germogliando delle piante meravigliose, e quindi forse la risposta è questa: ci sono altre città molto più ricche e molto più attente all'arte, che però magari non producono così tanta arte come sta succedendo a Brescia. A proposito di arte, c'è all'interno del tuo libricino, sì, del CD, c'è scritto, c'è un'introduzione ai disegni a cura di Giovanna Galli, sì, disegni che compaiono fotografati all'interno, sì, del tuo disco, e apre così dicendo: Andrea Romano, quando produce le sue opere grafiche, non fa nulla di diverso rispetto a quando scrive o canta. Come si riesce a intersecare questa operazione canto e pittura? E nello stesso modo, nel senso che la dinamica è la stessa. Io quando scrivo, dicevo prima, le canzoni, mi metto al piano, suono qualcosa, un giro, qualunque cosa, quello che mi viene, e mi nascono le parole insieme. Io non so che cosa andrò a dire, è chiaro che dico delle cose che penso normalmente, però non la metrica, le parole, non neanche il tema so, mi escono delle parole e io resto spettatore di questa cosa. Nello stesso modo quando dipingo, adesso tra l'altro andremo a Parigi a Catalogue, a una fiera importantissima, mi hanno detto, perché io non è che me ne intendo tanto, però mi ci portano e andiamo in questa fiera importantissima, grazie a Francesco Gattuso che mi sta aiutando tantissimo. Io trovo per strada delle persone che mi danno veramente una mano senza chiedere nulla in cambio, e questa è una cosa meravigliosa. Francesco mi sta portando a Parigi in questa fiera, una delle più importanti al mondo, con i quadri, e dal 19 al 23 saremo a Parigi, e questi quadri nascono nello stesso modo. Dicevo, io faccio uno scarabocchio e guardo lo scarabocchio come il giochino delle nuvole, ci vedo dentro qualcosa, e da quel qualcosa che ci vedo comincio a sviluppare il quadro. Il tema del quadro. Tra altre cose, a chi avrà modo anche di andarsi a vedere, curiosare su internet, sì, sul mio sito romano.it, sì. Se ci andate vedete, ci sono, oltre che le canzoni, c'è la sezione quadri, vedete un po' che disegni un po' molto colorati, molto pop art. Sì, sì, molto pop, certo. molto colore c'è in questi disegni. Da segnalare un disegno che compare anche all'interno di questo libricino, che si intitola La crisi, sì, ed è quando degli uomini portano, diciamo, abbraccio, si c'è un Abramo Lincoln sollevato, sì, che vola orizzontale, cioè solo vola, è sospeso da una fune, sì, e guarda ad est col dito ad est, quindi verso la Cina. È un messaggio che si vuol dare agli Stati Uniti, allora, in questo caso. Quindi. Sì, in realtà è un quadro del 2008, quindi sì, era ancora, cioè cominciava un po' questo casino. È un messaggio, ma sai, i messaggi sono sempre, non sono uno, sì, che poi vuole dare messaggi, ecco. Certo, i messaggi dei pittori poi bisogna andarli a ricercare, sì, dietro, sono molto più complessi nella storia del quadro, perché sì, la canzone forse è più immediata, la poesia va un po' parafrasata, però diciamo la sensazione rimane. Il quadro bisogna essere compartecipi di quella che l'emozione espressa dal pittore, bravo, in questo caso, bravo, non bravo, so, bravo, ecco, bravo. Vabbè, allora non dimentichiamo che Andrea Romano è venuto a trovarci, non è da solo ma in compagnia del suo piano, come abbiamo ricordato in principio di trasmissione. E cosa ci fa ascoltare, Andrea? È una piccola stella, è una ballad, è un brano lento, è un brano al quale io tengo particolarmente, e non tutti i pezzi che io scrivo narrano di me, io narro anche degli altri, delle cose. Questa invece è una canzone che racconto un po' il mio pensiero, insomma. somiglia. Ecco quello che vive in noi. Due lanterne per occhi che si guardano attorno per comprare la felicità. E siamo noi convinti di comandare un fiume, un segnale che invece sa dove andare. Ed ostentiamo quel che è giusto e quel che è sbagliato, soluzioni costanti per sentirci importanti. Pronto chiamo dalla terra, qui c'è ancora la guerra. Noi pensiamo che il cielo sia una scatola vuota, poi guardiamo pubblicità, poi crediamo che il mondo sia fatto di cose e inseguiamo banalità. E siamo noi concubini dentro una storia, schiavi della menzogna e del sapere formale. E ancora noi cantautori di strada e pagliacci, cantiamo canzoni per alleviare i dolori. E siamo noi astronauti e pianeta, astronave, girotondo del sole, solcando una scia d'autore. Siamo noi avviliti, confusi e distanti, un falso cuore davanti per fingerci santi. Attendisti e centurioni, tre chiodi e un martello per la paura d'amare. Dimentichiamo di quell'attimo chiuso in un silenzio per non sentire l'assenza. Di quel che è la libertà. Campo base chiama terra. C'è ancora la guerra. Una piccola stella, guarda che meraviglia. Ecco quello che salverà. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche in versione live questa bellissima, diciamo anche Nina Nanna, la possiamo definire così. È una piccola stella, un uomo che guarda il mondo da lassù o da laggiù. È poi la stessa cosa. Sì, poi diciamo che chi è qua giù vorrebbe andare lassù a vedere come si vede il mondo giù. Per sì, poi ritornarci sì. Subito. Sì, diciamo concetto... che sì, il concetto di terra e cielo è poi sì. Quella linea invisibile che non c'è. In realtà non, separare il cielo dalla terra è il problema eterno dell'uomo. Però una cosa che tu dici che c'è in terra e che però non esiste nel cielo è essere schiavi delle menzogne e del sapere formale. Sì. Dove in cielo non c'è bisogno di questo. No, perché è la sintesi, infatti non c'è neanche bisogno di parlare in cielo probabilmente. E in cielo inteso come, per chi ci crede o non ci crede, in ogni caso sì, certo. Inteso come concetto di unità, il concetto di non separazione fra le cose. Noi siamo costretti a muoverci nel mondo e per forza di cose, anche se non è vero che lo pensiamo, nel momento in cui definiamo qualcosa e cominciamo un discorso, siamo costretti per forza a cadere o nel bianco o nel nero. Oppure c'è un altro modo, dire sia il bianco che il nero. e un po' le mie canzoni dicono tutto il contrario di tutto, cioè, ma questo non vuol dire che allora non dico niente. In realtà in questo gioco fra yin e yang, si dice in Oriente, riuscire a trovare un equilibrio per arrivare alla sintesi, siamo costretti a dire una cosa con delicatezza e la cosa opposta con delicatezza, e forse poi quella sintesi indecibile dovrebbe arrivare. Essere un po' politici anche nei discorsi, quindi... Sì, ecco poi sì. Politici... No, come dicono, nel politicamente corretto sempre, sì, no? Sì, ecco, in questo caso. In questo caso sì, ma quello è diplomazia. Sì. Non sto parlando di diplomazia, io sto parlando di dire proprio... dirle le cose, ma dirle dicendo anche che ci sono, ma cioè, se io devo per forza definire che una cosa è sbagliata, non è vero che è sbagliata, cioè è sbagliata in questo momento, ma quella cosa sbagliata può servire a trovare qualcosa di giusto. Se non fai quel passaggio sbagliato non ci arrivi lì, certo. E quindi devo dirti che stai sbagliando, ma fai bene, non potresti fare altrimenti. E viva la critica costruttiva in questo caso. Ecco, vabbè, mettiamola così. Come la chiamano? Gli schizzi, cioè tu hai detto che fai uno schizzo, fai un quadro, dipingi, trovi l'idea. Lo schizzo di questo pezzo era un accordo di piano? All'inizio è nato così. Adesso non va. Comunque è nato. Ecco qua, È nato così questo pezzo qua. Mi ricordo perfettamente perché stavo giocando e avevo mia figlia in parte. E ho fatto. Questo accordo qua, questo. E poi ho giocato su questo. E c'era lei, l'ho guardato e io ho detto: una piccola stella, guarda che meraviglia. Eccola qua. E l'input era giusto. Era perfetto. Era quello. E dopo. E poi anche le parole nascono proprio. Sì. Non è che le scrivo e dico che. Cioè, anzi, devo scriverle, le registro col telefonino, perché dopo me le dimentico. Quindi accendo il telefonino, canto, dico delle cose e poi dico. E poi le scrivo. Dopo. Perché ho letto da qualche parte: tagli, ricuci, ritagli, ricuci. Sì, e naturalmente. Nella fase competitiva. Sì, certo. Qualcosa va tolto, certo, magari certo. Ho una strofa lunghissima non c'ho il ritornello, ecco, dire. Allora faccio diventare il ritornello, sì, e questo è un modo per, però il testo e le parole nascono in toto con la musica. Adesso se ne facciamo un'altra, per esempio, che sì. Anche questa è nuova, questa è fuori dal disco, è fuori dal disco, sì. Bene, se vogliamo fare una new entry assoluta per noi e si chiama Accendo Facebook. Perfetto. Ma che non, in realtà non parla di Facebook, ma parla di qualcosa d'altro, però è nata anche questa con i miei figli, nel senso che stavo giocando con le parole e anche lì non volevo parlare di Facebook, dico come mai ho detto questo, è un mistero. La facciamo? Sì, certo, certo. Come no? È nuova, devo mettere il testo. Giustamente dal vivo giriamo lo spartito. Sì, giusto, ricordiamo intanto gli ascoltatori che stiamo piacevolmente conversando con Andrea Romano per la presentazione del suo ultimo lavoro che si intitola Quante stelle, un solo cielo. Andrea Romano è venuto a trovarci in compagnia della sua tastiera e ci ascoltiamo un inedito che per la prima volta viene anche irradiato in questo caso. Pensieri morti dentro una TV, qualunquismo fresco lana blu. Va bene, mi arrendo, ora spengo, accendo Facebook. Oh. Ah. Molte volte nemmeno lo sanno, d'essere anch'essi poi preda d'inganno. Arroccati e convinti in percorsi mentali che persino nei bar oggi sono banali. Salti in banco dentro una TV, occhi spenti che non vedono più. Difendono un'idea morta e stramorta dopo l'alta marea. Soffia lento, lo vedi in un sol momento, quel che c'è lì vicino a te. lo sguardo di quel bambino, che l'acqua diventa vino finché c'è. Senza costrizione, non è una vita senza regole. La natura del coerente sta nella contraddizione. Separare quel che è inseparato, se esiste col peccato, la verità a volte è errore che costringe alla ragione. Se lì vicino a te l'amore non soffia lento, lo vedi in un sol momento quel che c'è lì vicino, lo sguardo di quel bambino, che l'acqua diventa vino finché c'è. Logica di parte, chiedo scusa ma io resto in disparte. La mia è una condizione che non sta con nessuna fazione, non se ne esce più, perché lotte sociali in TV, non si divide l'uomo. Per star bene io, devi stare bene tu. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E ci siamo ascoltati una graditissima anteprima, questa bella canzone, dal titolo ce lo ricordi, Andrea? Per adesso si chiama Accendo Facebook, poi non so se sarà così, perché la stiamo arrangiando e probabilmente la metteremo, faremo un video a brevissimo e la metteremo su Facebook, su Instagram, su YouTube, e poi la regalerò dal mio sito, si scaricherà gratis. Ok, benissimo. Quindi ricordiamo anche il sito per vedere qualcosa di più anche di Andrea Romano. andrearomano.it. Andrea, come la fai gli arrangiamenti di questo pezzo? Io all'inizio, chiaramente è un pezzo che noi non abbiamo mai sentito, è una new entry assoluta, aveva un po' di swing, poi non so se il swing sparisce o si sviluppa in un altro settore, in un altro andamento. L'arrangiamento è già, la preproduzione è già stata fatta, è una sorpresa. Ce l'ho qua, te la faccio sentire dopo. Ecco, perfetto. Okay. Però io ho questa intuizione, cioè ho sentito un po' di swing all'inizio, poi chiaramente le cose cambiano, vai in un altro settore, vivi in un altro posto, però c'è quell'inizio di swing, c'era secondo me. Sì. Era visibile, era ascoltabile più che visibile. Certo, uno swing che si ascolta anche molto spesso all'interno di quelle che sono le 11 tracce del disco, che appunto si intitola Quante stelle, un solo cielo. Prima avevamo nei negozi di dischi, certo, cioè, oltre che su iTunes eccetera eccetera, è anche Feltrinelli, Media World, varie, insomma, cioè, se lo chiedete c'è. Ecco. Benissimo. Ricordiamo che hanno suonato non solamente i Kaufman, che hanno suonato in alcune delle canzoni, tutti i pezzi hanno suonato loro. Sì. E poi ci sono delle aggiunte, delle aggiunte anche piacevoli, con il sax, il flauto e molti altri strumenti. Ci sono interventi di famosissimi. C'è, ad esempio, musicisti. Se io fossi vento, e quando lo saprò, hanno suonato appunto i Kaufman, che sono Lorenzo Lombardi, Simone Prestini, Leonardo Traina e poi ancora Luigi Suardi. Suardi. Poi ancora Marco Franzoni ha fatto il basso e delle chitarre, e poi abbiamo negli altri interventi dei fiati. Sì, poi ha suonato Marco Barusso da Milano, negli studi di Umberto, ha fatto delle altre chitarre lui. E poi abbiamo Valerio Gaffurini, abbiamo fatto, c'è una cover di Ti lascio una canzone di Paolo, arrangiata da Paolo Costo, da Valerio Gaffurini, e tantissime, proprio è stato veramente un disco, ci abbiamo messo un anno a tirarlo insieme, ed è stato un parto molto, molto lungo, ma è stata un'avventura meravigliosa, cioè ho capito veramente come andrebbero fatti i dischi. Cioè in gruppo, cioè il gruppo è fondamentale per fare un disco, vabbè, c'è poco da fare, veramente, veramente vincente, veramente esatto. Vincente. Poi dobbiamo ricordare una cosa, caro Flavio, sì. L'etichetta è lui è anche praticamente il manager della sua etichetta, la Penta Music. Sì, anche se devo dirti che ultimamente, per fortuna, ho il mio carissimo amico Paolo Salvarani. Che fa le mie veci, il ramo commerciale, sì, il ramo commerciale, ma no, fa proprio anche le relazioni con gli artisti, sì, certo. è davvero bravissimo, e abbiamo uscita tantissime cose nell'arco di 6 mesi. Ci saranno 3 o 4 progetti nuovi. E come hai avuto questa idea, Andrea, di fare un'etichetta, di fondare un'etichetta? È nata tutto con veniva a casa mia Titti Vincenzo Castrini. È un grandissimo fisarmonicista e cantautore, veramente vero, bresciano, sì, del Lago di Garda. E veniva a casa mia, a me piaceva sempre piaciuta la musica, veniva a suonare, ogni tanto facciamo una festa, lui veniva a suonare. E io ho chiesto, ma perché non fai un disco? Scusami, non hai fatto un disco? No, avevi i pezzi anche suoi. Dico, mi fai mica facile tutto il resto, lo faccio io. Ecco, faccio l'idea io. È partita da là. Lo faccio io. Allora io e il mio amico Sandro Miotto ci siamo messi insieme e abbiamo cominciato a capire come funzionava questa cosa qui. E da lì poi ci abbiamo preso gusto. Ci abbiamo preso gusto nel senso, dal punto di vista della passione. Poi in realtà dal punto di vista economico abbiamo perso tutti i gusti. Ma verrebbe da chiedere, cioè, no, quando ti metti a fare queste cose, sei sano di mente, no? Sì. No. No, a parte quello che un pizzico di pazzia ci deve essere sempre, c'è chi ne ha fatto anche l'elogio in questo caso, però voglio dire, quando ti trovi di fronte anche a certe etichette grosse o le famose major, sì, che... No, mi trovo mai di fronte a loro. No, cerchi sempre di schivarle. No, proprio non sono, siamo proprio in mondi diversi, quindi testimoni anche tu che si può fare la musica senza passare di là? Secondo me no, nel senso che la musica si può fare della bellissima musica, della musica forse la vera musica di qualità, no? Perché in ogni caso puoi osare nell'indie si può usare che il mercato invece, dopo è nato prima l'uovo o la gallina, non si capisce se la televisione spazzatura è figlia del pubblico oppure siamo noi che eccetera, però, eccetera, però alla fine arriviamo al fatto che chi può sperimentare siamo noi e folli, e chi invece è lì che deve far quadrare i conti per la struttura e così magari non ha il coraggio, oppure non perché sono degli stupidi, cioè non penso che siano incapaci, no, penso che siano proprio molto bravi, ma però probabilmente non hanno il coraggio di provare qualcosa di nuovo, e quindi continuano a restare nel già sentito, e questo anche le radio, no? certo. che le radio certo, bisogna avere coraggio di trasmettere certi pezzi, sono d'accordo con te, e da far incidere a certi artisti, sono d'accordo con te. Le major non hanno più quel coraggio. Non hanno più coraggio, anche perché i dischi non si comprano più, sono gratis, quindi non c'è un giro di soldi. Probabilmente se ci fosse il giro di soldi lo farebbero anche loro, cioè una piccola parte dei guadagni li metterebbero per la sperimentazione. Però non avendo più guadagni neanche loro, cosa fanno? Adesso non voglio difenderle, perché. Sì, sì, perché non mi arrabbio, sono nell'occhio del ciclone, tutte le major adesso. Mi arrabbio con loro, però dopo, sempre per il discorso di prima, che bisogna vederlo da tutte le parti. Insomma, capisco. Allora, visto che dobbiamo vedere da tutte e due le parti la tua musica, Andrea, sia quella in studio qui con noi, con le tue tastiere, sia quella del disco per fare sentire ancora qualche pezzo, io direi di inserire anche la traccia numero 7, ovvero Dimmi, e poi tornare a commentarla a caldo. Ok. Blu Radio Sera. Come il cielo tra una foglia e l'altra, quando la notte sullo sfondo ride e canta. Certe cose non son da dire, sì lo so, potrai forse capire, meglio stare sul banale. Canto qui una frase commerciale. Dimmi se c'è un posto per amarti ancora, o dimmi tu se c'è un posto per odiarti almeno, e dimmi se è vero che esisti, o dimmi tu se sei solo un diavolo e mi tenti. Quante sono le cose che non si vedono in un uomo, come gocce di rugiada nascoste nei cassetti quando il sole scalda la strada. Certe cose non son da dire, sì lo so, vorrai forse capire, meglio stare sul banale. Ricanto qui quella frase commerciale. Dimmi se c'è un posto per amarti ancora, o dimmi tu se c'è un posto per odiarti almeno. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è Dimmi, un'altra bella canzone tratta da Quante stelle, un solo cielo, il titolo del nuovo lavoro di Andrea Romano, che è qui con noi in questa serata di martedì 4 ottobre del 2011 per farci conoscere il suo mondo, la sua musica, non solo la sua musica, abbiamo sentito anche prima che lui è anche pittore, è un artista e tra poco parteciperà anche. È bella questa cosa, sì. La dico sempre quando si dice è anche artista, no? Sì. Come si riconosce uno, a me sono concesso che io sono un artista e a me sono concesso che esistano artisti, perché nel caso l'artista è una cosa, io non mi sento artista per nulla, io sono un narratore di qualcosa, l'artista è altro secondo me, e comunque il fatto che uno riconosca come artista, uno fa un disegno, un artista, no? Sì, certo. Se scrive una canzone invece è un cantautore. Anche quando il mio bimbo di 4 anni fa i disegni dico che artista, artista. Così. Però vabbè. Si confonde l'arte, sì. L'arte è visiva, no? Sì. Invece la musica non so perché non viene, è anche artista, ma tutti lo dicono, Andrea Romano è compositore e anche artista. Probabilmente non si sa definire bene da quale categoria appartiene, diciamo, l'artista e il musicista. In esatto. Realtà è la stessa cosa. Ma un pezzo forse italico, questo qua, sì. Secondo me. Sì, solo italico. Sì. Non è neanche riconosciuta la canzone d'autore come opera d'arte, tra l'altro. Esatto, ecco. Sì, è vero questo. Da un punto di vista anche proprio legale, no? E questo bisognerebbe metterci un po' le mani su questo. Penso di sì, non per le mie, penso ai pezzi. Non so, La donna cannone, sì, sì, sì, sì. Dalla De Gregori, sono opere d'arte, sicuramente. Certamente sono opere d'arte. A proposito di opere d'arte, dimmi questo pezzo, aveva un po' un arrangiamento. Io ho parlato con te mentre il pezzo andava, cantavi da, leggermente da Kroner, perché c'aveva un po' di squincere quel sax, cioè gli archi davano un'impostazione. Questo è un pezzo proprio scritto proprio anni 50 pieno, cioè esattamente, quindi giro, anni 50 assolutamente. Il giro Sinatra. Sì, sì, esattamente quello. Che è un po' ironico, come tu giustamente hai detto. È ironico perché sì. È un pezzo che nel ritornello dell'inciso dice appunto dimmi se c'è un posto per amarti ancora o se il diavolo mi tenti, eccetera eccetera, e invece la strofa dice quante sono le cose che non si vedono in un uomo con il cielo, è più chiusa, è più... canto qui una frase commerciale. A un certo punto dico, siccome non possiamo dire che cosa conteniamo, ma mettiamolo sul commerciale, no? Allora per accattivarsi le simpatie, ma lo dichiaro, dico faccio una cosa, è un po' una presa in giro. Questo dimmi è anche un po' una richiesta di spiegazioni, ammesso che ce ne siano, per una storia d'amore andata. No? È una sua ricollocazione all'interno della mente. No, proprio non c'è nulla di personale, è proprio una... mi sono chiesto cos'è che potrei dire se fossi uno che vuole fare lo splendido e vuole scrivere le cose per colpire la gente, e la gente, cioè una certa fascia di persone. Il sentimentalismo totale, proprio questo. Ecco, allora ho scritto. Non avrei usato quelle parole per descrivere. Quindi non intimista, come avrei letto di primo. La prima parte sono io. Sì. La strofa sono io che racconto, no? E la seconda invece, l'inciso invece sono io, però che. È una sfida al pubblico, che ti ascolta. Sì, una sfida, esatto. Dal vivo come lo fai questo pezzo? Facciamo un po' rock. Un po' rock, cioè acceleri il discorso. Sì, diventa... cioè leggermente ti allontani dagli anni 50. Sì, dopo chiaramente la struttura è anni 50, però con la band... Pesta, un pochettino pesta. Cioè, pestiamo e pare giusto che sia così. Abbiamo parlato adesso di band, abbiamo parlato di musica dal vivo. Quali date ci sono in giro che ti ricordano? Suonato domenica, l'altro ieri, al Jetson Live a Brescia, che è un locale molto prestigioso. E, con la band ufficiale che suoni? Con la band, hanno fatto un bellissimo concerto, e poi un ambiente molto, cioè un suono perfetto, è veramente andato molto bene. E adesso siamo in attesa per le nuove date, adesso probabilmente suoneremo in altri due locali a Brescia, da qua a novembre e a dicembre, e dovremo cominciare una sorta di piccolo tour per l'Italia dall'anno prossimo nelle gallerie d'arte. E quindi, cioè, cosa vuol dire? Cioè, fai suoni dentro le gallerie d'arte, fai un set acustico? Sì, no, proprio una band. Fare delle mostre e all'interno delle gallerie in 3, 4, 5 città in Italia, quindi fare la mostra e all'inaugurazione fare il concerto. Ah, bello, interessante questo, molto interessante. Vediamo se riusciamo a cioè interagire tra arte e musica, che arte è sempre arte in ogni caso. Fra pittura e musica, che è sempre arte in ogni caso. O arte o narrativa. O narrativa, va bene. Diciamo che andava molto di moda anche il reading, cioè questo sistema tra lettura e canzone. Adesso questa diciamo. Sì, non penso di aver inventato l'acqua calda, voglio dire, penso che qualcun altro l'avrà fatto. Però sì, per sicuramente qualcuno l'avrà fatto, però il riproporlo e soprattutto riproporlo con quelle che sono le tue creazioni, sia diciamo visive sia diciamo udibili, ecco, in questo caso, e il mix dà un insieme solo Andrea Romano in questo caso. Sì, è un po' egocentristica la cosa, però, però questo è, voglio dire, io non vorrei essere così, apparire così egocentrico, perché non fa uno, fa l'altro, no? Ecco, io faccio, ripeto, lo faccio al mio meglio e faccio delle cose che mi piacciono. Poi credo questo, che è importante questo, secondo me. Uno poi dopo ognuno ha la sua cassa di risonanza, no? Cioè qualcuno che gli fa da specchio c'è sempre. Quindi, certamente. Bisogna riuscire a trovare e a essere, per questo le radio importanti servono in ogni caso. E per questo secondo me fare per forza i duri e puri, soprattutto per quanto mi riguarda, non parlo per gli altri naturalmente, io non sono indipendente, crudo, voglio dire, io faccio delle cose che sono anche pop, faccio delle cose anche orecchiabili, faccio delle pop vuol dire popolare Andrea, assolutamente popolare nel senso proprio la musica pop intesa come non per forza della musica indipendente. L'indie è un po' più spostata a live e a certi locali. Io faccio anche dei pezzi che penso che siano radiofonicamente parlando orecchiabili, voglio dire, ecco, quindi è chiaro che io gradirei poter arrivare alle radio, anche se tantissime radio, sia con Dimmi che con Mondo, ci hanno passato, anche radio diciamo importanti, e è chiaro che se arrivi a un grande pubblico più semini e qualche cosa poi torna, quindi ti puoi permettere di continuare a fare le tue cose. È vero. Sarebbe ipocrita dire non mi interessa andare nei canali importanti, perché no, cioè, se ti chiamano a Sanremo dici di no. Sì, no, lì è un problema. Ah sì, in che senso? È un problema di età, non posso andare nei big e non posso andare nei giovani. Allora lì è un casino, cosa intermedia. Sì, no, infatti dovrei vendere, andare primo in classifica e allora potrei andare a Sanremo. Certo. Oppure ingrassare come un pazzo. Fantastico. Allora ci concediamo una breve pausa alla nostra chiacchierata e facendo ascoltare un altro pezzo sempre da Quante stelle un solo cielo, questa volta è la traccia numero 10 che si intitola Se io fossi vento. Blu Radio Sera. Vado, io vado, per quello che ho avuto ed ancora non so, per quello che ho dato ed ancora non do. Vado, io vado, dove sei tu, dentro te, troverò il bene profondo che c'è e sarai tu. Non a quello che dici, non a quello che pensi, non a quello che fai, ma a quel che sei e nemmeno lo sai. E anche se io fossi vento, mi fermerei a guardarti in quel punto. Quella linea, che linea non è, è letto dal sole, che dormire non dorme, così l'orizzonte ingannatore pare a colui cui la mente sol dell'occhio s'affida. Non badare ai miei occhi, non badare al mio cuore, non badare al mio nome, resta solo stupore che rotola lento. E anche se io fossi vento, mi fermerei a guardarti. E sarai tu, proprio tu, quel lumino acceso. E anche se io fossi vento, mi fermerei a guardarti. E anche se io fossi vento, mi fermerei a guardarti. Radio Sera. Blu Radio Sera. E questo pezzo che ci siamo ascoltati si intitola Se io fossi vento, e c'è quella frase conclusiva che mi ha conquistato: e anche se io fossi vento mi fermerei a guardarti. Proprio un quadro di, secondo me, una persona che va di fretta, che non si ferma come si dovrebbe di fronte alle meraviglie. Capita molto spesso anche passeggiando nella propria città, anche riferito ai monumenti piuttosto che alle cose anche più semplici che ci sono intorno a noi. Molte volte si è troppo presi, si corre veloci e non ci si ferma a guardare. Non c'è tempo per far nulla, ma perché noi non ci prendiamo il tempo per far nulla, perché in realtà l'atto di osservare è può essere in qualunque momento, è che non siamo più abituati a, o forse non siamo mai stati abituati a fermarci anche adesso in questo momento mentre si parla. Non si può dire aspetta un attimo che ci penso bene e guardo qualcosa. È vero. È verissimo questo. Musicalmente un pezzo abbastanza accentuato, un pop, Simon, un pop che via, che corre e non si ferma. Si è fatto con i Kaufman, questo era una ballad. È una ballad, però si è trasformata. Si è trasformata. Perché provando gli accordi in studio, perché sono due accordi un po' fuori dalla normalità, e allora il chitarrista stava provando a farlo veloce per imparare la memoria, e sentirlo fatto veloce ha detto va bene così. È diventata questa. È stata un'accelerazione, chiaramente. Sì. È positivo, sicuramente. Noi parlavamo a microfono spento, cari ascoltatori, di qualche incursione, qualche addentellato, qualche input vicino a Fossati, che è un musicista che ami particolarmente. Sì, particolarmente, sì. Ivano Fossati, Battisti su tutti, Vinicio Capossela. Anche Vinicio Capossela, sì. Come mai vicino a Capossela? Me l'ha fatto conoscere Titti Castrini. Ce la conoscevo con Che cos'è l'amore, queste cose. Invece poi mi sono comprato i dischi e proprio li ho consumati. E all'inizio ero più portato a pensare a me come in quella veste, diciamo, più intimista e così. Poi non so, tutto cambia, devo dirti. Adesso invece mi piacciono ancora i pezzi intimisti, chiaramente, ma però non, forse lo farò più avanti, magari. Certo. Lo farò più avanti. Adesso mi piace avere un po' di brio. Esattamente. Ancora, sì. Beh, già la dimensione, come tu hai detto prima, dell'elettronica presunta o futura dentro del disco nuovo. Da quello, da brio, vero? Cosa dici, Flavio? Beh, assolutamente. Giustamente il groove. E quindi siamo anche curiosi, e quindi sei costretto a ritornare anche per... Volentieri, col male che vi voglio. Assolutamente, grazie. Comunque, vabbè, quante stelle, un solo cielo. Abbiamo citato Fossati, abbiamo citato Battisti, ma diciamo nella formazione professionale di Andrea Romano, c'è stato qualche artista che già quando eri piccolino ti aveva solleticato dentro? Battisti, perché mia sorella ascoltava Battisti, e abbiamo 8 anni di differenza, quindi lei al momento proprio battistiano pieno, io sono cresciuto con lui. Non sono mai stato un grande fan di Baglioni, a quei tempi c'era Battisti, Baglioni, certo. E poi c'era Rentano Celentano, eccetera. Però Battisti era veramente, dal punto di vista italiano almeno, il nuovo, e ancora adesso guarda che ce ne sono pochi che riescono ad eguagliare. Sono attualissimi i pezzi, gli arrangiamenti, tutto. Battisti con Mogol o quello dopo? Io sono talmente battistiano che so a memoria tutti i testi, anche con Panella. Però. A memoria tutte. No, bravo, complimenti. Mica sono semplici i testi di Panella. Mi piace l'ermetismo, quindi ci sguazzo dentro. Però comunque io proprio battistiano pieno. E sì, è chiaro che c'è, diciamo, giornata uggiosa. Il primissimo Battisti, quello di Per una lira e così, ero piccolissimo, l'ho ascoltato tante volte adesso, però quello che mi emoziona di più è proprio dal 78 all'85, diciamo, una giornata uggiosa, poi sui titoli non me ne ricordo, comunque Gelosa cara, amica mia, quel mondo lì, quel groove, quello di Per una nastro rosa. Sì. Ecco. Beh, lui era un grande arrangiatore, Battisti, era un innovatore, assolutamente un innovatore. Assolutamente. L'hanno scoperto un po' troppo, cioè un po' di anni dopo che era un innovatore, all'epoca già. Beh, pensa che dopo alla fine hanno finito con l'elettronica, esatto. Totale, è stato il primo, no? E però... ancora... Penso che qui non ha venduto molto, penso che magari fra 20 anni andrà prima in classifica. Come si chiamava? Handel? Hegel. O cosa succederà alla ragazza? Ecco, un altro che aveva sempre le copertine bianca con la scritta. La sposa occidentale, Hegel, cosa succederà alla ragazza e Don Giovanni. Don Giovanni è un disco meraviglioso, un disco del Battisti, anche se il Battisti dopo, è il Battisti prima con Don Giovanni dal punto di vista musicale. Con la moglie l'ha scritto quello. L'ha scritto, un passaggio con Ammolato Mogol, è stato... Sì, sì, sì, esattamente. La moglie aveva scritto qualcosa. Si è fatto un disco subito dopo di Mogol, sì, con la moglie, con lo pseudonimo praticamente. Sì, è un disco, cioè, il Battisti di Pasquale Pannella è un Battisti difficile, complicato, ma complicato per alcuni, bellissimo per altri. Ci sono due partiti diversi. Sì, probabilmente, adesso parliamo di lui, benissimo, e probabilmente è stato il momento in cui uno scrive testi come quelli di Battisti e Mogol, cioè che la... sono irraggiungibili, sì, qualcosa di fossati, voglio dire, ma se no, cioè cose così, cos'è? E a quel punto lì giochi con le parole, a quel punto lì dici, più di così, cioè ormai tutti i temi li abbiamo toccati, certo. Cioè, dovremmo tornare sullo stesso tema, detto in modo diverso, a questo punto lasciamo spazio all'ermetismo e al gioco di parole, penso che sia una reazione, no? Più che, non tanto il fatto che non ho più Mogol e non posso più, proprio... Sì, sì, sì. Vabbè, insomma. Allora, abbiamo citato grandi artisti, però ricordiamo nella traccia numero 11 del tuo disco, Andrea, hai voluto rendere omaggio a un altro grande della musica italiana. Gino Paoli. Sì. Gino Paoli, che ha scritto assieme a Beppe Vessicchio una bella canzone, conosciutissima, Ti lascio una canzone, per l'appunto. Sì. Come mai l'hai scelta in mezzo a mille canzoni di Paoli? Ma guarda, anche lì eravamo indecisi fra la cover di Battisti e la cover di Paoli. E Paoli, mi amo cantare Paoli proprio perché mi dà gioia. E anche queste canzoni così tristi, no? Però ditemi, a me piace, vedrai, mi piace da morire. È una canzone tristissima, no? Certamente. Ma non provo tristezza quando la canto, cioè a queste aperture. E io sento come sento io mentre canto, non quello che sto dicendo, non il testo, proprio il movimento che mi dà interiore la canzone, e questa è una canzone che mi dà gioia, e quindi ho detto facciamo questa, e l'ha fatta arrangiata Paolo Costola con Valerio Forini, e devo dirti che non è facile andare a toccare, perché cioè, arrangiamenti ne hanno fatti di tutti qua. Sì, sì, e sì, quindi certo. Abbiamo cercato di farla in questo modo minimale, ma credo almeno riuscito bene. Cosa ci proponi adesso dal vivo, Andrea? Mettiamo quella, poi... Mettiamo sì. Questa allora da disco, quindi inseriamo il numero 11. Ecco qua, mi sono allontanato un attimo dal microfono, ed ecco qua che può partire la canzone. Insieme si chiude qui la pagina in comune, il mondo si è fermato, io ora scendo qui, prosegui tu, ma non ti mando sola. Lascio una canzone per coprirti se avrai freddo, ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame, ti lascio una canzone da bere se avrai sete, ti lascio una canzone. Cantare una canzone e tu potrai cantare a chi tu amerai dopo di me. lascio una canzone da indossare sopra il cuore, ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno, ti lascio una canzone per farti compagnia, ti lascio una canzone. Canzone che tu potrai cantare a chi tu amerai dopo di me, a chi non amerai senza di me. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccola qua la canzone di Gino Paoli, scritta a quattro mani assieme a Giuseppe Vessicchio, è stata ripresa da Andrea Romano e inserita in questo CD che si intitola Quante stelle un solo cielo, e stiamo imparando insieme a conoscerne il contenuto, e anzi ci piace molto. Cosa ne pensi, Maurizio? Sì, il pezzo era molto interessante, come dice giustamente Andrea prima, era difficile porsi davanti un pezzo di Gino Paoli, e cantare Gino Paoli non è semplice, come cantare tutti i cantautori di una certa classe, però lui è stato bravo, ha deciso di fare questo pezzo che non è famosissimo, sì è famoso ma non è il più famoso, ne ha fatto altri più famosi, Sapore di sale, tanto per fare un titolo, però l'hai arrangiato minimale nel tuo senso, nel tuo modo di arrangiare i pezzi, la vedevi, la sentivi così. Questo era importante. Dopo tutto il resto non cantarla conta. Sì, esattamente. Sei riuscito a proprio entrare in un pezzo di un altro cantautore, poi questi cantautori. A che livello, quindi? Non è semplice. Non è semplice, quindi è interessante. Salutiamo un momento il nostro direttore artistico, grazie a lui stasera sei qua, il nostro Alberto Prisco. Ciao Alberto, grazie. Lo salutiamo. Ciao. Eccolo qua. Sì, perché alla fine Andrea hai deciso di mettere questo pezzo di cover? Non potevi metterlo, non so, all'interno del disco, alla fine, perché chiudere il cerchio? Sì. Penso che sia stavo cercando di inventarmi qualcosa in questo momento, perché di solito i musicisti quando fanno una scaletta hanno un motivo, i pezzi devono essere messi in questa maniera. La scaletta è stata fatta con grande attenzione, scegliendo sia dal punto di vista lento, veloce, certo. Sia dal punto di vista degli arrangiamenti, sia, invece l'ultimo pezzo probabilmente perché mi sono concentrato talmente tanto sulla scaletta che quella l'abbiamo messa alla fine. Ma no dai, è l'unica cover che c'è, dove la vuoi mettere? Certo. Però io era una mia domanda provocatoria, volutamente volevo capire da te, però ho capito, sì, chiaramente la scelta era così, doveva essere così, sì, c'è poco da fare. L'omaggio va alla fine, sì. Poi il discorso di tante facce, nel disco ci sono tante tue facce. Sì. Ci sono il clone degli anni 50, c'è questa cover, ma cover, come abbiamo detto, minimale, fatta da te, e poi tanti altri, il cantautorato, ma è quella cosa un po' più veloce, cioè il pop un po' più veloce, più possente, più propositivo. Sì, come In da te per me, per esempio, che poi magari sentiremo dopo. Sì. È un altro brano arrangiato con fiati e chitarre. Certo. È una cosa, anche lì Umberto ha fatto un grandissimo lavoro, e tra l'altro è un brano che dopo diremo come è nato insieme a un mio amico. Bene. Insomma, adesso facciamo un pezzo. Ci fa ascoltare qualcosa dal vivo? Sì, dai. Nuovo. Perché tanto c'è il disco, quindi. Questa si chiama Aria. Va al piano? Sì. forse. Trafitte sopra i muri, come foglie a novembre, stanno là, ancora là, e non va. Ancorati alle finzioni bevono sangue amaro di veleno, inquietanti manichini plastica, ancora qua. Raccontate sulle bocche, sì va bene, è permesso, sì lo so, ma non va, e non va. Come schiavi, invisibili catene, pensierini a memoria, l'importante è che qualcuno stia con te, contro di me. Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa è Aria con Andrea Romano, ce l'ha cantata qui in diretta dai microfoni di Blu Radio Veneto. Tante cose, una canzone che hai voluto regalarci in versione forse anche un po' teatrale, vogliamo dire così, no? Perché questi, è un peccato non avere avuto in funzione le webcam per far vedere le smorfie. Speriamo che con qualche fotografia si riesca a dare il giusto segno. È teatrale. Ecco, a proposito di fotografie, ricordiamo che poi la trasmissione e le foto verranno, diciamo, pubblicate su internet, le fotografie all'interno del nostro sito su Facebook, siamo presenti come Blu Radio Veneto Rock Wave, mentre invece il podcast sarà inserito all'interno del nostro sito www.bluradioveneto.it. Sì, un teatrale con tanta grinta. Io sono proprio curioso di capire come la potrei arrangiare un pezzo simile. Sono proprio curioso di sapere, io voglio qualche input da parte tua, vediamo se riesco a decifrarla. No, non posso, no, niente, è tutto top secret. Questa è top secret. Una grande sorpresa. Secondo me ci metterai molta grinta, gli strumentisti ti daranno molto da fare, secondo me, in questo pezzo. Ma guarda, io vedo, anche questo pezzo lo vedo fondamentalmente con tantissima elettronica, dei loop groove, del groove molto, molto accentuato sotto, e dei fiati. E c'è un po' di soul dentro. Sì. Fiati, il piano può restare all'inizio proprio per poi andarsene, poi restare solo elettronica e un arrangiamento di fiati, proprio quelli anni 50, sì, proprio queste cose, sì, qua. Però insieme all'elettronica, quindi portare il suonato nel mondo proprio quasi quasi proprio estremo, modernissimo, insomma. Bene, bene, molto interessante. Allora ricordiamo ancora una volta il sito internet dove trovare ancora informazioni riguardo Andrea Romano, è andrearomano.it. All'interno di questo, oltre ad avere su Facebook, poi e su Facebook, certo, oltre ad avere un assaggio anche di quelli che sono i pezzi del 2011, si vede anche un po' cosa si è perso l'anno scorso, il pubblico. Quindi nel 2010 c'era quel tuo primo lavoro che si intitola Specchio nel blu, sì. Ecco, e anche lì si possono, nel sito si possono ascoltare anche sì, sì, ma anche su YouTube trovate per esempio i video sia di Specchio del blu, sì, che di Dimmi, per Dimmi, esempio, certo. Dimmi, cioè, sono, ecco lì faccio un po' il teatrale. Sì, sì, sì, sì, veramente sono in smoking, faccio delle smorfie incredibili, anche lì è ironico, la bimba è tua figlia, si capisca. Sì. La bimba che ho visto sul video, sì. E poi c'è Mondo, mm-hmm, e una ventina di video, gli altri sono con i miei disegni, quindi certo, sono le canzoni con i disegni che passano. È presente tra altre cose, se avete modo di chiamare su YouTube Cornetto gelato, sì, vedete proprio questa piacevole canzone con tutti quelli che sono i disegni coloratissimi di Andrea Romano. Sì, sì, sì. Cornetto gelato, ma anche tantissime altre. Dopo una volta che trovi la prima, poi comincia. Sì, sì. No, sono 20 video. Poi arrivano tutti, però sì, c'è questo che è proprio veramente pieno di colore, poi anche il motivetto che. È carino, assolutamente sì. Fisicamente, se uno vuole il tuo disco deve andare ai tuoi concerti o può richiederlo direttamente a te? No, nei negozi. Nei negozi certo, direttamente. Siamo distribuiti da Alidon. Beh, e siamo almeno, cioè, siamo in tutti i negozi d'Italia. Ecco, dopo chiaramente se mai il negozio non ce l'ha, basta richiederlo a te. Basta richiederlo al negozio. Arriva. Certo, certamente. Se no su iTunes e i vari, si trova. Oppure i concerti, naturalmente, però quello è un po' più locale per adesso. Beh, i concerti sono importanti per vendere i dischi adesso, no, sai? È importantissimo. Direi fondamentali. È l'unico modo. Sì, però dico, magari se uno è a Padova, magari io suono a Brescia, magari non viene per d'accordo prendere fa prima. Però che io ricordo, una volta non c'erano i cosiddetti panchettini dove ci mettono i dischi, adesso ci sono alla grande. Ci sono. Ci sono come alla grande, perché una volta era diverso, una volta, cioè ormai, beh, tu lo sai meglio di me, si vendono i dischi solamente o quasi esclusivamente nei concerti. Sì, a volte diventano anche dei ricordi, sì, più che altro, sì, perché se l'hanno già magari pure lo scaricano da YouTube. Sì, esattamente. No, ma poi diciamo che così gli artisti molte volte diventano famosi proprio tramite YouTube, tramite internet in genere, poi si va ai concerti perché gli è piaciuto quel determinato filmatino e dopo di lì scatta quella che è, diciamo. Sì, sì, sì. Il fatto è che tutti quanti stanno cercando di far così, a forza di dirlo, no? Che si nasce dal web, eccetera, sì, eccetera. Sì. Siamo tutti sul web, sì. Ma in realtà adesso sono talmente tanti che poi anche qua è diventato una giungla, non è che basta, non capiti di un artista per caso, ecco, diciamo che ci arrivi perché ormai qualcuno ti ha detto di Facebook, sta aiutando molto, meno sì, male, tramite le condivisioni e tutto il resto. Facebook è il futuro attualmente, poi cambia tutto così velocemente che magari fra 3 anni non c'è un altro, diciamo, certo. Sarà difficile perché ormai a 25 o 26 milioni solo in Italia, sì. Prima di trovare un altro ci vuole. È diventata una giungla anche Facebook, in questo caso. Vabbè, allora adesso spazio ancora per un brano da disco. Avevamo citato prima il Da te per me, sì, e quindi l'ascoltiamo. Sì, scritta con un mio amico, si chiama Massimiliano Parmini, un giorno è venuto a casa mia e aveva, suona la chitarra e canta, è figlio di un bravissimo cantante degli anni 50 e 60 anzi, e niente, aveva questo pezzo che era un pezzo in inglese e aveva la strofa, un errore diverso, aveva certo, questa strofa che faceva tan. Allora lì ho detto vieni qua che la facciamo, e per gioco l'abbiamo cambiata completamente nel ritornello, nel bridge, nello special, però la strofa è rimasta quella ed è forse la cosa più interessante della canzone, la strofa tra l'altro. Vabbè, allora, sentiamola. Allora l'ascoltiamo, naturalmente è interessante tutto il pezzo, posso garantirvelo io. Blu Radio Sera. Scivolando dentro un'auto grigia, viso stanco, abbasso gli occhi e sei lì. Anche se va con la ragione, sempre non è la cosa migliore. Vendimi, vendimi una convinzione per mascherare la tua condizione. Date per me strada inutile, se non fosse perché piango. Dame per te, resta solo un po', giusto un tempo per un no. Mentre ti chiudi in opinioni, penso che un anno ha stagioni. Quello che è in divenire a volte fa soffrire. Quale rinuncia riconosce un inganno. In vetrina i pensieri e tu col cuore in affanno. Specchiati, specchiati in quel barlume, io liberato dal tuo luogo comune. Comprami, comprami, sono a buon mercato, sul quarto scaffale, con il prezzo sbagliato. Da te per me, sia importante o no, resta solo per un po'. Da me per te, tutto quel che ho, nei tuoi occhi già lo so. Non voglio essere come te, fuoco pungente. Tu sembri seria ma ci viene un po' da ridere. Ci viene un po' da ridere. Denti più stretti, scudo dai no. Ad occhi chiusi non mi salverò. Un'alchimia, trasformazione, noi liberati da giudizio padrone. Vendimi, vendimi la tua convinzione per mascherare la tua condizione. Ma pensa a te, faccia ridere, se non fosse per tuo pianto. La verità sembra una bugia. Poche parole a stento, senza più turbamento. Quelle parole sono già dimenticate. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Abbiamo ascoltato anche questa Da te per me, a cantarla è Andrea Romano dal suo album che si intitola Quante stelle, un solo cielo. Allora questo Da te per me, ma io l'ho visto un po' come uno scambio di idee, di passioni, di condizioni e di convinzioni. Com'è nata questa canzone, Andrea? È nata, come ti dicevo, in un pomeriggio con il mio amico Massimiliano e abbiamo questo pezzo scritto in inglese con questa strofa e un ritornello che arrivava subito, e poi abbiamo cominciato a lavorarci per creare un bridge, come si dice, cioè un ponte fra la prima strofa e il primo ritornello, e poi il ritornello è stato un po' variato, dopodiché c'è stato aggiunto lo special finale quando fa tanti più stretti, chiuso, eccetera, eccetera, anche lì cambio di accordi, è molto articolata nella struttura armonica. C'è una chitarra alla Shadow, come abbiamo parlato. E Umberto Iervolino mi piace molto Umberto questa canzone, ci ha messo veramente tantissima classe, tantissimo studio. Umberto ci mette tanto a preparare i dischi, a preparare i pezzi, e uno ci pensa, prova, e fino a quando non è sicuro non ti fa sentire nulla. Ho capito, quando è a posto allora così. Così, infatti, anche avere la possibilità di lavorare con questi professionisti, comunque impari tantissimo, e vedi che poi alla fine tutti i professionisti sono più o meno uguali nell'approccio, nel senso che sono seri, sono meticolosi, non lasciano le cose riposare prima di proporle, sono poco avventati, come invece generalmente uno è portato a essere, nel senso l'entusiasmo, no? senti questo, no? Invece, aspetta. E quindi è nata così questo pezzo. Ci avevamo partito l'inglese, era solo un momento dell'inglese che originariamente era in inglese, come tu hai detto, poi chiaramente si è sviluppato, l'hai allargato, il testo è cambiato totalmente. A me piaceva la chitarra alla Shadow, che c'era giustamente, e non soltanto la chitarra alla Shadow, c'era qualcosa d'altro che moriconiano, questo, un po' di West, un po' di musica americana, ma poi è ritornata la tua musica, le tue coordinate. Sì, esatto, sì. È proprio rispetta in toto la fotografia di quest'anno, cioè del fine 2010-2011. Sì, la fotografia del tuo disco in quel momento là. In quel momento. Esattamente. Sì, sì. Bene, c'è ancora il tempo per fare una canzone dal vivo prima di salutarci, per cui ci riascoltiamo quel mondo che avevamo ascoltato all'inizio della trasmissione in versione acustica. Giovanna aveva 4 soldi per non ballare la tastiera. Ecco, adesso va. Pronti? Sì. Giovanna aveva 4 soldi in un cassetto e niente da sognare. Mario che pensava sguardo al muro, ma che faccia ste zanzare. Giulia non pregava affatto, ma sapeva come amare. Luca ad ogni passo un accidente e al diavolo il mondo. Mondo, tante storie, un solo uomo. Mondo, quante stelle, un solo cielo. Mondo, nato a causa di un effetto. Dio, figlio e padre di te stesso. Di te stesso, di te stesso, di te stesso, di te stesso. Marco aveva un gran talento ma non sapeva cosa fare. Carla conosceva 3 parole che sapeva far fruttare. Il doganiere moglie amante disse nulla da dichiarare. Un barista si fingeva sordo per non chiacchierare. La cassiera bionda del negozio si chiedeva fosse male rubare 4 soldi al giorno, forse è normale. Il sergente stanco della guerra disse al comando: voi dite che si fa la storia, ma io ho perso memoria. Mondo, tante storie, un solo uomo. Mondo, quante stelle, un solo cielo. Mondo, nato a causa di un effetto. Dio, figlio e padre di te stesso. Amore che non dai, e gioia che non hai. Più chiari ti metti, meno cose poi vedi. Cerchi solo il difetto per sentirti perfetto. Amore che non dai, e gioia che non hai. Amore che non dai, e gioia che non hai. Mondo, una storia nata in cielo. Uomo, ora star ma giù in TV. Mondo, nato a causa di un effetto. Dio, figlio e madre di te stesso. Di te stesso, di te stesso, di te stesso, di te stesso. Il presidente chiuso in estasi nucleare baciò l'oppositore in bocca e disse: mi puoi sposare? Adamo lo intuiva che una mela avrebbe fatto male, ma Eva lo convinse un giorno: quel che è scritto è da fare. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato anche Mondo nella versione acustica, solo piano e voce. Andate pure nel sito di Andrea Romano, andrearomano.it, per ascoltarvi anche le altre tracce, così per sapere cosa andrete poi ad acquistare. Un disco davvero davvero bello, sincero quanto basta. Sì, è una veramente. E poi vale la pena acquistarlo anche per la parte del catalogo delle tue opere che ci vuoi far vedere, perché all'interno del libricino con i testi, con i ringraziamenti, con tutti i personaggi che hanno collaborato a questo disco, ci sono anche queste immagini che naturalmente viste dal vivo saranno molto più grandi. Sì, ecco, e quindi anche un invito per conoscere Andrea Romano non solamente come musicista ma anche come pittore. Grazie. Sì, l'abbiamo sentito qua come musicista, chiaramente siamo stati molto soddisfatti di questo. Piano e voce, però hai detto la tua, hai fatto sentire le tue canzoni, questo era importante. Certo, sì, io sono fondamentalmente, poi ti dico, è comunicazione. È chiaro. Non stiamo parlando di bel canto o di quello che siamo, dei cantautori, quindi facciamo quello che dobbiamo e lo cerchiamo. Cioè, e lo facciamo al nostro meglio. Sì, esatto, cantautore però che, come giustamente abbiamo detto all'inizio della trasmissione, svari, cioè tocchi tanti campi musicali, ed è giusto che sia così. Sì. Le tue diverse movenze, modi di musicare le cose. Sì, sì, sì. Ho interessi plurimi, quindi non riesco a fermarmi. No. Come nei testi delle mie canzoni, nel senso, sì, cerco di riuscire a stare un po', a provare un po' il tutto. Non mi piace star lì a fermo in un genere solo. Mi piace, se mi piace questo, mi piace quello, lo faccio. Certo, certo, certo. Poi ci sarà anche l'elettronica nel prossimo futuro. Musica per piacere, quindi musica per passione. Allora prossimamente abbiamo già obbligato Andrea Romano a tornare a farci ascoltare anche quelle EP che si sta pian piano componendo per a breve. All'interno del sito ci saranno tutte le comunicazioni. E allora Andrea, che dire, buon rientro in quel di Brescia, è stato davvero un piacere, un onore averti qui con noi. Grazie a voi, perché è stata una serata veramente piacevolissima, voi siete molto simpatici e mi avete messo a mio agio, e ringrazio veramente voi e la radio. Bene. Allora noi ci lasciamo ascoltando un ultimo pezzo di Andrea Romano. Prima vogliamo commentarlo, Andrea. Abbiamo poi, scelto sì, poi. Poi. Sì. È un altro brano dall'atmosfera un po' diciamo sempre il ritornello è scritto con tutti gli accordi alterati, un po' anni 50 anche questo. Invece la strofa è su un giro un po' di accordi particolari, poteva essere una strofa un po' più black, ma invece un po' più nera. È stata unita con il resto e sempre arrangiata con fiati e da Umberto, e anche questo è una cosa, non la canzone ma l'arrangiamento è veramente qualcosa di raffinato. Benissimo, allora ancora grazie Andrea Romano, da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara è veramente tutto, grazie a tutti, vi lasciamo con questa poi Andrea Romano, e ricordatevi questo titolo: Quante stelle, un solo cielo, un bel disco da ascoltare tutto da un fiato e grazie. Poi riproporselo. Grazie. Vero? Bene, grazie ancora Andrea Romano, grazie a tutti, buona serata. Arrivederci. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Si insinua tra un drago e una conchiglia, e tutto quel che resta è una favola mai desta. Poi cos'è il il muro, allora poi vince il poi. Se non vivi nel presente, sei fottuto e resti assente. Io vado per la mia meta, inseguo una cometa, fioca luce laggiù in fondo a proteggermi se stallo. E sogno senza sognare, vivo sopra un'astronave. Navicella il nostro mondo, l'ho già scritto, gira intorno. Poi, cos'è il poi? Anche se sembra banale, non è straccio il mio ideale. Poi e poi, vinco il poi. Un mistero fitto l'universo, dove nulla viene disperso. Questa musica è un rituale, quattro accordi in alto mare. E lo scrivo tutto tondo, io ci credo all'altro mondo. In un cuore senza spine, niente calci alle lattine. Nella calma intelligenza, nell'amore e la pazienza. Mente, tutto è mente. Terra, cielo, stelle, luna e noi ostinatamente, chiaramente. Tutto è mente. Scioccamente, inutilmente, io me lo spiego ancora. Dal passato al futuro si inarca il ventre della madre partoriente. A gemere di antiche mire, noi creiamo il nostro mondo, ma poi il quadro sembra strano, ci sentiamo separati.